ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Milan e aspetta! Milan e Manera, Champagne e Barbera! Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E se tanto mi dà tanto lo champagne sono io, mentre Vestagliona è il barbera o la barbera, la barbera. Dovrei mandargli una bottiglia di spumante, anzi di champagne. Oh, vedi? Vedi lo champagne, lo dice anche il presidente della Regione Campania De Luca. E allora così è. Signori, siamo tornati. Uno, nessuno, 100 Milan, bravo! Più applausi, ce li diamo noi, sai come quelli che si fanno pat pat sulle spalle? Siamo tornati, caro Alpino! Basta adesso, per tutto l'anno vale questo applauso. Eccolo qua, l'uomo mascherato lì in regia, l'Alpino, Peter Bescapè, c'è, mi guarda, mi vede, mi osserva, insieme... Vabbè, adesso no, basta, abbiamo già... messo troppo entusiasmo in questa ripartenza. È ancora agosto, come direbbe Manera sconsolato, è ancora agosto e siamo qui a lavorare dopo 6 striminzitissime settimane di stop e di vacanze. Siamo qui, vedo Lorenzo Nespoli, anche lui in maschera dall'altra parte del vetro, saluto Miriam Blucchetti, Elisabetta Fusconi, non è cambiata la squadra, c'è Vestagliona Manera che arriverà, come ha scritto ieri su Facebook, attorno alle 9:30 più o meno, con calma. Quando ma chi se ne frega? No, ma come chi se ne frega? C'è anche una grande novità, l'avete sentito ormai nel palinsesto di Radio 24, siamo un po' stucchevoli, lo ripetiamo, ma lo scopriremo alle 9:30 con la diretta interessata. Maria Piera Ceci, parleremo di scuola nello specifico tutto il lunedì, ma poi si sa che di scuola parliamo sempre perché è uno dei grandi temi che... interroga molte famiglie italiane disperate a pensare inizia o no la scuola, si spera. Per iniziare inizia, il problema è come continuerà. Cosa mi vuoi dire? C'è Lorenzo che mi guarda? Sì, mi ricordo perché ho ancora i neuroni attaccati. Mi ha detto una cosa di ricordarmi e me lo ricorderò, me lo sono appuntato anche sul telefonino. Signori! 9 minuti, siamo pronti, siamo ancora nel 2020, è un anno bellissimo, come diceva quel tale. Guardi, glielo ripeto, lei è distratto, ho detto anno bellissimo, una battuta. Vabbè, allora se era una battuta va bene, allora capito tutto. Siamo sempre lì, signori, siamo sempre lì a parlare del Covid. Che dobbiamo fare? Ormai la vita ci è stata stravolta. Uno sconsolato Manera nei giorni scorsi, quando ci siamo sentiti, ha detto: parleremo ancora del Covid per tutto l'anno. Non lo so, se vuole Leonardo quando viene parliamo d'altro, però la verità è che di questo dobbiamo parlare. Ha stravolto le nostre vite e con questo dobbiamo fare i conti. Tra l'altro devo dire una cosa, eravamo uniti, siamo stati uniti come paese, ricordate ancora l'andrà tutto bene, è durata poco, gli italiani restano uniti per poco, e poi la politica ha diviso tutto, ci sono le liti anche sul Covid. Mi ha colpito, per esempio, era una delle feste dell'unità, non lo so, si chiamano ancora feste dell'unità, credo di sì, la festa dell'unità, Zingaretti, segretario del PD, presidente della Regione Lazio, qualche giorno fa ha detto una frase riferita ai nazionalisti, ai sovranisti, molto molto dura. C'era in campo un'altra opzione, che è quella dell'irresponsabilità, del negazionismo, della furbizia, del giocare con le mascherine che erano inutili, del virus che è finito, e quella cultura politica che ha governato il Brasile, quando è diventata governo nel nome del populismo e del nazionalismo, ha portato a cosa? ha portato alle fosse comuni delle spiagge. Insomma. Certo, si riferiva al Brasile, Zingaretti, ma l'allusione ai nazionalisti, ai sovranisti, al dire là dove governano queste persone, qual è il risultato? Le fosse comuni nelle spiagge. Tra l'altro, devo dire questa cosa, a me la parola negazionista veramente fa infuriare. Anch'io, come sapete, non io, ma molti ospiti che sono qui a Radio 24, scienziati, medici, dicono che il virus ormai clinicamente non ha quella rilevanza che aveva nei mesi precedenti. Ma se uno mi desse del negazionista, ma io gli spaccherei la faccia. Cioè, io odio la violenza, ma è la prima volta che potrei reagire. Ma negazionista è una parola grave. Negazionista si dice a chi nega i forni crematori e chi nega la Shoah. Ma negazionista è una parola gravissima. Non si dovrebbe mai utilizzare negazionista. O meglio, si deve utilizzare per quei matti che negano l'esistenza della Shoah e lo sterminio di 6 milioni di esseri umani. Ecco, quelli sono i negazionisti, mica quelli che dicono magari che bisognerebbe affrontare in maniera diversa e non con il terrore sanitario e psicologico questa situazione certamente di emergenza. Abbiamo sentito prima De Luca che mi andava una bottiglia di champagne e credo che faccia gli auguri anche a Briatore. Ragazzi, per 2 giorni d'Italia non ha parlato altro che di Briatore. Questo fa capire tante cose. Inviamo un augurio affettuoso intanto a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni. I migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso ad essere prudente. La prostatite ai polmoni non è male, eh? Non è male, non è male. Va bene, cari ascoltatori. Oh, non ho dato i numeri? Nel senso dei numeri per chiamarci, ma sono sempre gli stessi, lo sapete ormai. 800 24 00 24, questo è il numero se volete chiamarci e intervenire in diretta. 349 238 6666, il numero per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp che arrivano già copiosi. E devo dire che parliamo, non ho detto il menù, parleremo di scuola sicuramente, appunto, con Maria Piera Ceci, come tutti i lunedì dalle 9.30, parleremo anche un po' di quello che succede negli Stati Uniti. Ricordiamoci che ci sono le elezioni, avremo ospite Massimo Fini alle 10, avremo ospite anche Andrea Franzoso, che è diventato ormai uno scrittore, l'avete conosciuto varie volte qui, ha scritto un libro, Viva la Costituzione, quindi parleremo di legalità. Però vorremmo iniziare a parlare appunto di Covid, e io lo voglio fare con un ritorno molto gradito, una voce che tutti gli amici di Radio 24 conoscono, è il professor Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno Remuzzi e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buona mattina. Allora, perché vogliamo fare un ragionamento a partire da un articolo che lei di recente ha pubblicato e riguarda diversi studi scientifici, ed è molto interessante. Sentite bene, cari ascoltatori, perché ci si concentra, e si concentra il professor Remuzzi, sul caso dei tanti asintomatici, cioè coloro che sono positivi ma non sviluppano i sintomi. E la scienza si chiede come mai, cioè perché alcune persone sono asintomatiche e altre no. In questo articolo, lei ora ce lo spiegherà molto bene, il professor Remuzzi dice: gli asintomatici forse iniziamo a vederli non tanto come un rischio, cioè come coloro che portano in giro il virus inconsapevolmente, cominciamo a vederli, e la scienza lo sta facendo, come un'opportunità per capire che cosa significa. Significa intanto che gli asintomatici non sono un gruppo omogeneo. Ci sono asintomatici e asintomatici, tutti non hanno sintomi per definizione, asintomatici. Mm-hmm. Però un conto sono gli asintomatici che avranno la malattia dopo 2, 3, 4, 5, 6 giorni. Questi sono con una grande quantità, con una grande carica virale nel naso e in bocca, ed evidentemente trasmettono la malattia. Un altro conto sono gli asintomatici, di questi tamponi che noi vediamo sempre di più in questi giorni, che hanno una carica virale bassissima. Per trovare il virus bisogna fare tante amplificazioni del test che si utilizza per individuarlo, e poi quel virus lì non infetta le cellule in cultura, quindi è molto improbabile che trasmettano la malattia. E poi c'è probabilmente un grande gruppo di asintomatici, di cui si sta occupando la letteratura internazionale, che sono degli asintomatici che hanno sviluppato un sistema immune capace di contrastare il virus per aver incontrato prima qualcosa del genere nella sua vita. Cioè, noi abbiamo sempre detto è un virus nuovo, non abbiamo armi, l'hanno detto tutti. Su questo non c'è stato nessuno scienziato diviso, tutti hanno detto siamo di fronte a una cosa nuova, non la conosciamo, il nostro sistema immune. Invece noi siamo di fronte a una cosa nuova, ma forse il nostro sistema immune no. Questo è molto importante, cioè per far capire bene, potrebbero gli asintomatici, si usa il condizionale perché la scienza ragiona per condizionali, esatto, da confermare, insomma, quindi usiamo il verbo al condizionale. Potrebbero questi asintomatici, un grande gruppo di asintomatici, aver incontrato un virus simile negli anni passati e avere sviluppato un sistema immunitario che funziona anche contro questo virus. È basato su certe cellule del sistema immunitario che sono linfociti, cioè globuli bianchi, e che si chiamano linfociti T. Alcuni di questi linfociti T hanno visto delle proteine in passato che assomigliano a quelle di questo virus, per esempio anche del raffreddore comune, oppure delle vaccinazioni che hanno fatto nell'infanzia, oppure della vaccinazione contro la tubercolosi, o contro la poliomielite, o contro il pneumococco. Ed è interessante perché chi ha incontrato queste proteine simili ha già delle cellule T che sono capaci di combattere il virus. Che hanno anche una memoria hanno immunitaria. Una memoria, perché il sistema immune è un sistema di memoria, è capace di ricordare e fa come il computer. Sì. Ogni volta che incontra qualcosa potenzia la sua memoria e la rende più sofisticata. Beh, certo che, professore Muzzi, questa sarebbe ovviamente una novità importante, cioè perché a quel punto bisognerebbe capire perché questo gruppo più o meno ampio di asintomatici lo sia, asintomatico, e vederli appunto non più come una minaccia, ma come una risposta, quasi una cura, no? Una risposta. Ma sì, se fossero tutti di quel genere lì, che a un certo punto o hanno incontrato questo virus o hanno incontrato l'altro, altre cose del genere, e quindi il virus non riesce più a diffondersi, avremmo a un certo punto risolto il problema. Sa come è venuta fuori la cosa? La cosa è venuta fuori perché hanno preso dei detenuti, più di 3.000, di Arkansas, North Carolina, Ohio e Virginia, e hanno visto che questi detenuti, erano infetti, 3.000, di più di 3.000. Il 96% di questi non aveva sintomi. E allora si sono chiesti, ma come vai? Poi hanno fatto un'altra cosa, hanno preso dei donatori di sangue che avevano donato il sangue prima che ci fosse questo virus, l'hanno congelato, quindi quelle cellule lì c'erano, molti anni prima, 10 anni prima, e hanno trovato nel sangue di quelle persone, conservato 10 anni prima, delle cellule che sono capaci di riconoscere e combattere questo virus. E poi ce ne sono tanti altri. Adesso questo esperimento prima l'hanno fatto negli Stati Uniti, ma lo stanno facendo in Olanda, in Germania, e tutti hanno trovato la stessa cosa. Tra l'altro questa sarebbe, uso sempre il condizionale, una spiegazione anche del fatto per cui molti bambini sono asintomatici, perché hanno fatto le vaccinazioni da pochi anni. Questa potrebbe essere una risposta, no, professore? Potrebbe essere una risposta. Per esempio, i bambini hanno tantissimo virus nel naso e in bocca, forse di più degli adulti in gola, però non si ammalano, questo è poco ma sicuro, e forse sono contagiosi o forse no, perché hanno fatto forse la vaccinazione. Adesso è uscito un bellissimo lavoro che non è ancora pubblicato, che fa vedere che se uno ha fatto la vaccinazione contro la poliomielite nell'ultimo anno ha una riduzione percentuale del rischio di infezione da questo virus del 43%, con l'hemophilus influenzae del 47%, col morbillo parotite rosolia del 44%, con lo pneumococco del 28%, con la varicella del 38%, con l'epatite del 20%. Ma vuol dire che queste vaccinazioni qualcosa fanno, qualche relazione poi, ce l'hanno? L'ha fatto negli ultimi 2 anni, i valori sono più o meno così. E se l'ha fatto negli ultimi 5 anni, sono tra il 30 e il 14% per l'epatite. Un ascoltatore mi chiede, spiega, per principio contrario, spiegherebbe perché molti anziani, al contrario, sono più esposti, perché sono più lontani dalle vaccinazioni? Sì, perché sono più lontani, perché hanno visto che man mano ci allontaniamo dalle vaccinazioni, allora questa protezione si riduce. Sì, però c'è un'altra cosa abbastanza interessante, che è che la riduzione, per esempio, del vaccino anti-influenzale oltre i 65 anni è del 26% nell'ultimo anno, la riduzione della percentuale di rischio di infezione da questo virus SARS-CoV-2, mentre invece, indipendentemente dall'età, è del 15%. Anche questo spiega quello che dice il telespettatore, perché tendiamo, per quanto non li vacciniamo tutti, e questo è un errore, tendiamo però a vaccinare di più gli anziani. Sì, sì. Naturalmente più ci allontaniamo dalla vaccinazione, per esempio verso gli ultimi 2 anni, più la protezione. Sì. Quindi il virus non è poi così nuovo e le altre vaccinazioni, inclusa quella dell'influenza, probabilmente un po' proteggono, e proteggono di più chi ha un'età più avanzata. Senta, professore Muzzi, beh, sono tutti dati molto interessanti, ovviamente la scienza procede per conferme successive e verificheremo. Io so che noi l'abbiamo ospitata tante volte, è stato uno dei primi a dire guardate che insomma il virus non è più quello di prima, clinicamente non è più rilevante come prima. So però anche che adesso giustamente tra gli scienziati c'è una volontà di non buttarsi più in questo agone di polemiche, che ormai sono diventate polemiche strumentali, polemiche politiche. Ci può far però capire in un minuto qual è la situazione attuale del virus? Sa, le scuole riaprono tra poco, ci sono tantissimi asintomatici, le terapie intensive fortunatamente non sono più così piene, cioè non dovremmo iniziare a dire ragazzi ma ci sono tanti virus, c'è anche questo, conviviamoci. Ma allora, rispettando quello che stai dicendo adesso è giustissimo, perché un conto è stato febbraio-marzo, quello che vediamo adesso in termini di, lasciamo perdere la questione dei tamponi, che è una questione complessa, controversa e su cui ci devono essere per forza opinioni diverse, perché l'impostazione può essere completamente diversa, dipende dal punto di partenza. Ma se noi guardiamo a una infezione da virus respiratorio, quello che succede adesso in termini di malati e di ricoveri in terapia intensiva è uguale a quello che succede per qualunque altro virus respiratorio. In questo momento. Cose erano diverse a febbraio e a marzo e potrebbero essere diverse domani. Immagino che lei si ricorda che io ho sempre detto guardate che quello che vi dico vale per loro, vale per loro, certo. Ora, adesso abbiamo noi 8.000 posti disponibili in terapia intensiva, il Covid occupa meno dell'1% delle risorse, anche se arrivassimo ai livelli francesi saremmo sotto il 5% delle risorse occupate da Covid, quindi siamo lontanissimi dall'armi sanitario. Il vero problema sono due. Primo, che noi ci comportiamo come ci siamo comportati dopo il lockdown, cioè con mascherine, distanziamento e lavarsi le mani. Questo è veramente fondamentale e lo sarà per molti mesi e probabilmente per almeno un paio d'anni. L'altra cosa è i tamponi, facciamoli come ha suggerito il CDC di Atlanta, tra le critiche di tutti, a quelli che cominciano ad avere un po' di sintomi, perché è lì che noi dobbiamo intervenire. Noi adesso dobbiamo far vedere che il nostro sistema sanitario è capace di catturare chi comincia ad ammalarsi e lo sa curare. E guardate che se uno si accorge subito, e adesso c'è grande sensibilità, fin troppa, perché tutti quelli che hanno la febbre pensano di avere Covid, questa malattia forse si cura anche a casa, perché con piccoli accorgimenti, e pensate che è una malattia gravissima, ma così semplice da prevenire con quello che abbiamo detto prima. Cioè con la mascherina e con... È uguale all'AIDS. Se voi pensate che l'AIDS ha ucciso forse 50 milioni di persone al mondo, forse di più, ma l'AIDS si sarebbe prevenuta con 3 cose. Il condom, non scambiarsi tra le siringhe, tra chi utilizza droghe di ricreazione, e stare attenti che non ci sia il virus dell'AIDS, nel sangue che trasfondiamo, cosa che adesso in Italia si fa ormai da 20 anni. Dice quindi con delle precauzioni di lavarsi le mani regolarmente, tenere le mascherine, diciamo si abbatte notevolmente e la distanza. Noi siamo tranquilli, poi cerchiamo naturalmente, facciamo il tampone a quelli che hanno sintomi, stiamo attenti che quelli vicini non ce l'abbiano, interveniamo subito. In quel caso lì, secondo me, noi siamo, magari mi sbaglio e magari tra 15 giorni cambia tutto, vorrei essere molto forte nel dire che quello che dico vale per adesso, sì. Però l'1% dei posti, l'1% delle risorse di terapia intensiva non può essere il problema, ce ne sono tantissimi altri di problemi che occupano il 5%. No, certo, e c'è il rischio con, tra l'altro, con questa attenzione, ma giusta, per carità. Forse qualcuno dice terroristica, parole di qualche ascoltatore, che però io in parte condivido, con il ruolo anche dell'informazione. Io lo so che per giornali, radio, televisioni paga di più in termini di ascolto terrorizzare, perché allora uno sta incollato alla TV. Però forse si potrebbe pensare, con parole ragionevoli e con la scienza che deve continuare a fare il proprio lavoro attraverso gli scienziati, come ci ha detto il professor Remuzzi, cominciare a pensare di convivere, di vivere con questo come le centinaia di migliaia di virus che ci sono in giro per il mondo. Comunque, ringraziamo il professor Giuseppe Remuzzi. Molti mi dicono, ma scrivono, e allora perché questo terrorismo mediatico, scrive un ascoltatore, e non lo chiedete a me. Io spero di non farlo, cercando di informare nella maniera più corretta possibile, che poi è sempre quella che abbiamo avuto, e cioè non tanto dire la mia, ma far sentire la voce di coloro che sono autorevoli e possono parlare in maniera precisa. Allora, ma adesso, dopo la pubblicità, ci sarà l'ingresso, l'irruzione di Maria Piera Ceci, che già vedo, si aggira losca e sospettosa per gli studi di Radio 24, anzi la facciamo entrare in diretta, facciamo un ingresso in diretta, abbiamo steso anche il tappeto rosso per Maria Piera Ceci, che sta solcando in questo momento, sta solcando il tappeto rosso, dice già qualcosa, ma dopo la pubblicità dirà qualcosa di più. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, non tutti colgono l'ironia delle streaming zitte 6 settimane di ferie che poverini vi siete dovuti fare solamente. Abbiate pietà per noi poveri ascoltatori. Milan, siete due lavativi, un mese di ferie non l'ha fatti nessuno, vergogna. No, ho detto 6 settimane. Peraltro ho detto striminzitissime 6 settimane di ferie, caro ascoltatore. Vabbè, allora. Maria Piera Ceci, buongiorno! Buongiorno Alessandro! 9:31 minuti. Oh, ogni lunedì, adesso tutti i lunedì, ma non è che solo il lunedì. Mi tocca. No, non è che mi tocca. Oh, non è che solo il lunedì parleremo di scuola, ma nello specifico soprattutto il lunedì. Diciamo che di scuola il lunedì ne parlerete con me, poi tutti gli altri giorni non mi assumo la responsabilità. No, gli studi sono aperti, come sai le porte non sono blindate, quindi anche il martedì se assolutamente, sarai qua. Assolutamente, no, anche perché davvero la scuola in questo momento, insomma, lo stiamo sentendo anche in tutti gli altri programmi, naturalmente ne parliamo perché penso che le famiglie pensino soprattutto a questo argomento, no? Tutti noi abbiamo figli, insomma. Hai visto che circola questa vignetta meravigliosa di una mamma che manda i due figli fuori dalla porta dicendo andate i figli, ma mamma, ma la scuola non è ancora iniziata, voi iniziate a camminare pianissimo. Penso che interpreti bene il pensiero dei genitori italiani.

Infatti, quello che stavo dicendo, in realtà il vero obbligo è quello della misurazione della temperatura a casa. Casa. Ma questo lo faranno le famiglie, secondo me. Cara Maria Piera, ciao. Ti ritroviamo lunedì, ma anche sì, martedì. Ma quando comunque vuoi. Sono sempre qua. Non adesso, ti quando mi vuoi, sono qua. E più scuola in Italia, se no poi finiamo tutti come Leonardo Manera. Ah, eccolo, guarda che si aggira, eccolo lì, Leonardo. Serissimo, serissimo, Leonardo. Serissimo. Ciao Maria Piera, ci ritroviamo. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma cosa li fate fare i figli se poi non riuscite a starci insieme? Cioè, è una cosa incredibile, è inconcepibile pensare che senza la scuola voi non riuscite a tenere i bambini a casa, ma è fuori di testa. Questo è stupendo, questo c'è sempre, cosa fate a fare i figli se non riuscite a farli stare insieme, come se uno nella vita debba stare insieme attaccato ai figli tutto il giorno e la scuola non serve, cioè la scuola non si è... ma sì, dai, andate a lavorare ma nel frattempo state a casa coi figli. Ma caro ascoltatore, ma uno che lavora com'è che fa a stare a casa coi figli? Chiama il proprio responsabile al lavoro dicendo io devo stare a casa coi figli, quindi manda avanti tu l'azienda. Ma io veramente non la capisco questa. Signori, siamo tornati come eravamo, come ci eravamo lasciati. Ecco, esattamente come ci eravamo lasciati. Cioè, quando sono venuto l'ultima volta, la cuffia funzionava solo dalla parte di un orecchio e adesso ugualmente funziona solo dall'orecchio sinistro. Mi Leonardo sento solo dall'orecchio sinistro. Buongiorno. Manera! Niente amarezza, basta, non voglio cominciare con amarezza perché oggi c'è già abbastanza nell'aria, è una giornata para-autunnale qui a Milano oggi, anzi direi autunno vero e proprio. In più ho sentito quello che dicevate della scuola. Ti sei amareggiato? No, devo dire il preside, ma c'è una corresponsabilità anche i genitori, sarà una scuola a singhiozzo, una settimana a scuola, due settimane a casa, tre anche giorni tre, a scuola, anche tre a casa, tre settimane a casa, quindi i genitori si dovranno preparare a istruire loro i bambini, giustamente. Poi chi fa il lavoratore autonomo non so come farà. Sì. Sai che stanno aumentando molto i corsi di homeschooling, che io l'ho sempre vista come una follia un po' così para figlia dei fiori, sai, queste cose, insegnare a casa l'homeschooling perché è meglio così, e invece adesso sarà una soluzione. Sai che qualche anno fa si parlava di decrescita felice, no? Invece andiamo verso l'ignoranza felice, visto che non si riuscirà più ad andare a scuola. I bambini poi si stanno anche abituando, no? Mio figlio vedo che già poco alla volta comincia a pensare ad andare un po' sì, un anche po' a me no. Lo chiedono già, ma si riprende la scuola o stiamo a casa? Subito lo chiedono con fare affannato anche di speranzoso. Ma mio figlio, per la verità, l'altro giorno mi ha detto ho voglia, perché deve andare in prima media quest'anno, ho detto ho voglia di andare a scuola, e io ho detto aspetta e spero. Eccolo qua. Uno che a causa del proprio lavoro non è in grado di badare ai figli avrebbe fatto bene a non farli. Ma io non lo so, ma ci sono veramente, è talmente diffusa o siete solo due o tre così a pensarla in questo modo? Cioè, probabilmente lui non ha figli. Io credo che questo signore non abbia figli. Sì, perché può essere, essere. Mediamente bisogna anche lavorare, no? Per mantenere i figli. Diciamo, non farli allora, sti figli! Se devi fare un lavoro che non ti permette, metti che anche è capitato crescere un figlio, che uno ha avuto un coitus interruptus che è andato male, cosa fai a quel punto? Io l'avrei tenuto non anche. Non lavorare più! Il coitus interruptus non ha funzionato. Ecco. E a quel punto il figlio ce l'abbiamo perché non volevo. Cosa fai? Fai un lavoro che ti permetta di mantenere, di stare a casa anche col figlio se il figlio non dovesse più andare a scuola. Va bene? Questa è la soluzione della scuola. Infatti io ce l'avevo un lavoro così, facevo spettacoli, però poi hanno chiuso gli spettacoli. Hanno chiuso gli spettacoli e sono obbligato a venire qui tutte le mattine contro natura, alzarmi, fare 40.000, però questa settimana la farò da casa, quindi. Ah, cioè, giusto, diciamolo, perché Leonardo Manera è qui negli studi di Radio 24 oggi, in Vestaglione, come potete vedere in diretta Facebook nel video. Bentornato Leonardo. Va grazie bene, che io cosa... saluto anche gli ascoltatori. Ah, quindi facciamo adesso un monologo. Insomma, no, non so, se, non so quando, non so quando questo, chiudiamo. Tra 5 minuti abbondanti. Allora abbiamo tempo, va bene. Metterei una base nuova quest'anno. Però dovevi dircelo prima. Da domani avremo una base, no? No, ormai si sa che è questa. Si va a risparmio. Allora, dunque, dopo poco più di un mese siamo qui pronti a riprendere, ma con qualche differenza rispetto al mese scorso. Si stanno facendo molti tamponi in più e ci sono anche un po' più di positivi, anche se in gran parte asintomatici o paucisintomatici, che è una bella parola che mi piace dire. Ma tra tutti i positivi di agosto ha fatto notizia in particolare Flavio Briatore. Molte persone venute a conoscenza della positività di Briatore, che ancora non si è capito se era positività al Covid o alla prostatite, prostatite che peraltro in alcuni casi dà anche sintomi più fastidiosi del Covid stesso, molte persone hanno festeggiato, stappato bottiglie con un odio probabilmente mai visto prima, battute sui social, una felicità incontenibile che neanche quando vince l'Italia ai mondiali. Ci mancavano solo i caroselli per strada che si sono evitati probabilmente per non provocare assembramenti. Se non che, dopo qualche giorno, sabato scorso, se non sbaglio, Briatore è stato dimesso dal San Raffaele. E a quel punto cosa hanno fatto gli haters, gli odiatori di Briatore? Probabilmente hanno rimesso le bottiglie in cantina, aspettando che qualcun altro abbia sintomi più significativi. È vero che poi a quanto pare Briatore farà la quarantena a casa di Daniela Santanchè e questo per alcuni può essere più faticoso del Covid stesso, ma è solo una battuta. Resta il fatto che molti italiani hanno goduto come matti nel sapere che un'altra persona era lì ricoverata in un ospedale. Per molti è stato un segno della giustizia divina. Dio aveva punito Flavio che, incurante delle regole, aveva consentito gli assembramenti al billionaire, visto ormai come la fonte primigenia di tutti i mali. Non servivano più le prove dell'esistenza di Dio che nei secoli avevano provato a dare Anselmo d'Aosta o Sant'Agostino. No, la prova dell'esistenza di Dio era data alla positività di Briatore al Covid. Certo, mi si dirà, molti sono stati contenti della positività briatoriana, perché Briatore rispetto al Covid non sembrava aver fatto rispettare tutte le regole spesso inapplicabili, previste da qualche DPCM o qualche direttiva regionale, e da qui la comune soddisfazione della cosiddetta gente per bene. Ma lo dico io che quest'estate ho un po' girato l'Italia per alcuni spettacoli, pochi in verità rispetto agli anni scorsi, e anche per un po' di vacanze, posso dire che in molte occasioni ho visto assembramenti probabilmente non inferiori a quelli dell'odiato billionaire. Quindi se nessuno o quasi è in grado di poter scagliare la prima pietra, a cosa è dovuto tutto questo odio? Prima di tutto credo per la necessità di noi italiani trovare sempre un colpevole. Prima i runner, che si spingevano perfino a più di 200 metri da casa, creando grave nocumento, vale a dire danno, a tutti i cittadini onesti ossequiosi dei DPCM. Successivamente ai giovinastri che al tramonto escono come i vampiri, maledetti giovinastri, escono di casa a farla movida col solo obiettivo di far crepare i vecchi. Poi degli extracomunitari che, si sa, secondo alcuni in Italia sono la causa di tutti i mali. E infine il colpevole perfetto, Briatore, che è ricco, rilascia dichiarazioni non simpatiche e sta con una donna che mi pare abbia 50 anni meno di lui. Tutto questo basta farlo odiare profondamente, oltre che a farlo invidiare profondamente. Tutti quelli che hanno stappato bottiglie alla notizia della positività di Briatore e si sono prodigati in battute sui social probabilmente vorrebbero avere una vita che un po' assomiglia a quella di Briatore. Ma il Covid, cari amici, non è la giustizia divina, cari invidia odiatori. Il Covid è un virus che fortunatamente, nella gran parte dei casi, non dà sintomi, anzi sì, uno ne dà. È la rabbia di noi italiani che in ogni occasione schizza fuori come una bottiglia di spumante. La stessa bottiglia che avete stappato prima e che ora, ora che Briatore è stato dimesso, dovrete per un po' riporre in cantina. Eccolo qua, Leonardo. Anch'io devo dire sono rimasto infastidito da tutta questa gioia di queste battute sul karma legate a Flavio Briatore, che per la verità poi adesso è uscito e sta facendo la quarantena e basta. Poi non si gioisce mai per uno. Ma in Italia tanti l'hanno fatto. È lui responsabile, no? Prima sì. Appunto i runner, gli extracomunitari. Ma perché devi spiegare che fanno... documento vuol dire danno? Guarda perché... che gli ascoltatori di Radio 24 no. Sono molto istruiti. Non è vero, no. Sì. Secondo me, se vuoi fare un sondaggio, ci sarà un 5% degli ascoltatori della radio che sanno cosa vuol dire nocumento. Io stesso non lo capito? Sapevo. Razza di ignorantoni. Non lo sapevo. Non lo sapevo che nocumento vuol dire danno fino a un paio d'anni fa, quando ho cominciato a frequentare gli avvocati. Ah, sono gli avvocati che ti hanno fatto un capire. Un termine giuridico, un documento, un grave documento alla controparte. Hai pure studiato giurisprudenza, ricordiamo. In 7 esami. In 7 esami non c'era la parola documento. No, non c'era. C'era documento forse, no, sì, ma non documento. Pregiudizio, anche il pregiudizio è un danno. La prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui. Ci ritroviamo tra poco. Uno, nessuno, 100.000. Anche le nonne sono terrorizzate al pensiero che non riaprano le scuole. Eh sì, perché c'è questa bizzarra coincidenza per cui da una parte dicono giustamente proteggiamo gli anziani, eccetera. Ma secondo voi se le scuole in qualche modo chiudono o si fa la didattica online e ci sono dei ragazzini di 7, 8, 10 anni a casa, chi li dovrà guardare? In attesa del ritorno dei genitori che, nonostante quello che dice il nostro ascoltatore, ogni tanto vanno a lavorare. Dottor Milan, è lei che non abbraccia, sembra, i pensionati, quei poveracci che hanno lavorato una vita. Chi è che magari chiederà, Leonardo? Magari nonno terrorizzato. Magari qualche politico penserà di tutelarli mettendoli tutti nelle RSA. Capito, il nostro Leonardo Manera come è tornato. Silvana da Lecco, buongiorno Silvana. Buongiorno, ci sente? No, è caduta. Vabbè, ma dai, chiamiamo allora il nostro ospite che adesso è con noi. Io voglio fare due chiacchiere con lui, con Massimo Fini, giornalista, scrittore, che, come dire, voglio sapere com'è andata quest'estate. Chissà se lui si considera nella categoria anziani. C'è questa peculiarità. Comunque, insomma, sai che sentivo che l'altro giorno anche in un RSA sono esplosi alcuni casi. Però c'era nel titolo, sono diversi anziani positivi, tutti asintomatici. Sì, quindi a Milano, se non sbaglio, in via Quarenghi. Però c'è questo terrore per cui, se uno dice tutti asintomatici, asintomatici adesso, però poi chissà, ma chi l'ha detto? Cioè c'è questa tendenza a volere aggravare situazioni. Un anche... po' la colpa è di voi giornalisti. Eccolo là. Diciamolo, un po' la colpa dei giornalisti che per fare più notizie tendono a drammatizzare sempre. Un po' così, è inutile negarlo. Colpa per esempio di un Massimo Fini a questo punto, lo accolgo così. Caro Massimo, buongiorno. Ciao, ecco. Sei sopravvissuto al Covid, vedo. Io sì, e tu? Pare di sì. Infatti qua Leonardo Manera dice che è colpa dei giornalisti, vedi che drammatizziamo. Ha ragione, senso che si è drammatizzata la cosa al di là della gravità della stessa. Dopodiché, drammatizzando, tutti si impressionano di più e stanno peggio. Quindi c'è un effetto anche placebo al contrario. Esattamente. Nocebo, si chiama nocebo, effetto nocebo. Effetto nocebo. Ma tu Massimo, se io ti colloco nella categoria anziani, ti incazzi già su me. No, io ci sono purtroppo nella categoria vecchi, parliamo in italiano. Vecchi. Però sai, la cosa migliore con la vecchiaia è accettarla. Io non riesco a accettarla, perché sono infantile, quindi... Sei infantile. No, ma hai più paura? Perché si dice, però bisogna proteggere gli anziani, anzi i vecchi. Non hai più paura di questo. No, perché almeno, come dice Mannarino, il fulmine ti colpisce in testa, ma ti toglie il mal di testa, quindi... È una buona soluzione per l'emicrania, un bel fulmine in testa e vedi che scompare tutto. Allora, io vorrei sapere, ho detto, visto che quest'anno ci sono le elezioni americane, ho detto chieda a Massimo Fini, che è l'uomo più anti-americano che io conosca. Anche hai visto che Trump andrà a Kenosha, questa località dove c'è stata l'ultima sparatoria di un ragazzo che è paralizzato ormai, rischia anche la vita in ospedale. Ma questa cosa del razzismo inciderà sulle elezioni secondo te? Penso di sì, e penso che inciderà a favore di Trump. Perché saprà utilizzarla a suo favore. Cioè, che cosa potrebbe dire? Potrebbe dire che solo lui può riportare l'America a un stato di legge ed ordine, insomma, no? Lo che è poi è un antico mantra dei conservatori, e siccome lì sono spaventati da questa situazione, lui giocherà questa carta qui. L'altro, che è molto migliore, Biden, e però mi sembra è molto anziano, un candidato meno glamour di Trump, non credo ce la possa fare. Migliore, tu dirai è meno o peggiore, ecco perché... No, però povero Biden, quando era vice di Obama, è l'unico che disse, sai quanto io tengo la cosa, i talebani non sono i terroristi, sono degli indipendentisti. Quindi da lì ho inferito Biden tra i buoni. Da lì Biden è stato messo nella lista buoni, questi accettabili, poi, esatto. Seppure americano. Seppure alcuni americano, dicono che poi di fatto la vera presidente potrebbe essere la vicepresidente di Biden, certo. che è molto più dinamica, no? Sì. Perché ripeto, lui non so, ne ha più di 80, mi pare, e quindi insomma, fare il presidente degli Stati Uniti non è come lavoro, non è voglio dire leggero, sì. Ecco. Sì, tra l'altro Biden, ricordiamo, ha detto non utilizzerò mai l'esercito per motivi politici o la Guardia Nazionale o per vendetta personale, ha proprio detto questo non è law and order, cioè questa formula, formula che non è una serie TV famosa, ma è una formula, è una formula americana molto, molto utilizzata. C'è anche da dire una cosa, sì. Tutto quello che sta succedendo è che gli americani hanno la violenza nel sangue, e ce l'hanno all'esterno e ce l'hanno anche al loro interno, nel senso che quello spara, quante volte abbiamo visto che sparano anni po' qua per qualsiasi ragione, dico polizia ma anche le persone, insomma. Loro sono nati con questa vilissima genocidio contro i pederosta e qui per loro la violenza è la soluzione, insomma. Addirittura. Ma su questo ho molto dibattuto, perché io ho messo un post su Facebook quando ho visto questo 17enne che a Kenosha è sceso in strada con le milizie e poi di fatto ha aperto il fuoco uccidendo due manifestanti e ferendone un altro. A me è scattata subito l'idea di pensare, con così tante armi, così diffuse, così facilmente fruibili da chiunque entrando in un supermercato, sarebbe lo stesso anche in Italia probabilmente. Cioè, sai quanti agli incroci dei semafori regolerebbero le questioni di precedenza tirando fuori un fucile semiautomatico? Certamente, lì lo sappiamo tutti, c'è la lobby delle armi, e anche ci fosse un presidente meno... Non Trump esiste la lobby delle armi, sì. Però qualcuno mi ha fatto notare, guarda, che anche in Canada, ed è vero, ci sono tante armi, è una questione proprio di indole delle persone anche, cioè te l'ho detto prima, loro ce l'hanno nel sangue la violenza nel sangue, Sono nati con la violenza, ma non tutti, non è che si tramanda questa idea, se uno sta nel Connecticut che vuole uccidere un pelle rossa delle riserve. Sì, però sai, è un po' come un genius loci, nel senso che ovvio non è che tutti eccetera, però il trend è un po' quello, insomma. Però quello, Quello non, non so in Italia, sì, hai ragione tu, che dici che a ogni semaforo che guarderemo i conti. Anche alle assemblee di condominio, sempre questo. Ah, beh, le assemblee di condominio sono uno spaccato assoluto di che cos'è l'essere umano. Ecco. Ma quello che sta succedendo è un po' un fallimento di un sistema di integrazione. Noi abbiamo sempre avuto l'impressione che comunque gli Stati Uniti fossero un posto dove convivevano tante etnie diverse, in fondo, senza, no, abbastanza pacificamente. Invece adesso è il contrario, in qualche modo. Eh beh, per esempio, sai, l'apartheid fu abolita, mi pare, negli anni 60, ma un'apartheid culturale e mentale è sempre rimasta in molti, insomma. Cioè, le cose, diciamo, che noi chiamiamo culturali, sono cose profonde, smantellarle... Sì. Non è facile, è difficile, è difficilissimo. No, non è ovvio che insomma vengono al pettine un po' i nodi risolti. Sì. Tu puoi appunto eliminare per legge alcune discriminazioni, e questo è il primo passo, ma certamente la convivenza, per chiunque viva in America e ci racconta, non è facile. E adesso noi in Italia abbiamo eliminato il delitto d'onore, no? Tu. Però quanti delitti poi sono venuti per quel motivo lì? Poi piano piano la legge ha fatto il suo mestiere, ma sono tempi lunghi. Sì. Massimo, e noi e ci se noi viviamo poco, viviamo breve. Vivi la vecchiaia con meno, come dire, impeto giovanile, con meno fanciullezza nel cuore. Una cosa bella della vecchiaia. Una cosa bella della vecchiaia. Una. Dici, chiedi a me? Sì. Ce n'era una, aspetta un attimo. Si appannano un po' gli odi, le cose, insomma, diventano più blandi, ma si appanna anche l'amore, insomma, ecco, che invece... Se ce n'è detta una bella e subito hai dovuto mettere una negativa. Per forza, me lo dice anche la mia ex moglie, che peraltro è specialista in dire solo cose negative, per cui... Massimo, un grande abbraccio, non entriamo in questo argomento che è delicato, insomma. Grazie Massimo Fini, dai, andiamo un attimo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Non fate giornalismo, fate polemiche, solo polemiche. Che pena. Beh sì, Manera è un po' un polemico di natura, si sa, sei un polemico. Ma si vive per le polemiche, pensate che triste sarebbe la vita senza polemiche. Tra l'altro non è giornalista, quindi puoi venire qui a fare solo polemiche. Esatto, io non ho la tessera di nulla. Silvana da Lecco, buongiorno Silvana. Buongiorno, saluti a Milan e Manera. Che ci voleva dire? Allora, io sono una docente precaria, lavoro in provincia di Lecco e ho fatto il test sierologico prendendo appuntamento giovedì per venerdì gratuitamente. Quindi non è vero, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, non è vero che i precari lo devono pagare. Intanto... Per cui ho telefonato al numero di prenotazione unica. E l'ha fatto? Cioè glielo rimborsa la regione direttamente? No, non ho pagato niente. Sono andata lì e mi hanno fatto il sierologico, tempo un quarto d'ora mi hanno dato l'esito. E sono andata via senza pagare. Com'è, positivo o negativo? No, negativo. Dall'umore mi sembra negativo. Come tutti i colleghi che erano in sala. E quindi è preoccupata quest'anno di poter contrarre il virus perché è negativa, non ha anticorpi? No, io sono abbastanza serena. Gli risponda a tono, Silvana, non abbia timore, gli risponda tutti vorremmo. Sono serena perché sono prudente, ho due genitori anziani che voglio tutelare. Poi lavoro con i disabili perché sono un insegnante di sostegno, per cui sto molto attenta nel tutelare gli altri e me stessa. Silvana, insomma, intanto una precisazione importante. Com'è Alecco la situazione Covid? Ci sono stati molto ma abita Alecco la signora? Leggerà il giornale. Ci sono stati molti casi. Volevo aggiungere una cosa. Manca l'informazione ai docenti, forse anche da parte del Ministero o delle stesse scuole, perché sono notizie che noi abbiamo tramite un tantam di colleghi o di parenti che fanno lo stesso lavoro e quindi manca, secondo me, una cosa fondamentale, l'informazione, perché se questa ci fosse, tante polemiche probabilmente sarebbero inutili. Grazie Silvana per questa testimonianza. Adesso alle 10:22 minuti io voglio fare due chiacchiere parlando del suo ultimo libro, ma anche parlando di lui, perché mi ha sempre incuriosito. È una persona che tutti gli amici di Radio 24 già conoscono, e torna con noi Andrea Franzoso. Buongiorno Andrea e ben ritrovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, Andrea Franzoso, devo dire, Leonardo Manera è uno che ha avuto già quanti anni ha lei, Franzoso? 43. Quante vite ha già vissuto? Già 5-6? Cioè, vabbè, laureato come molti, insomma, ma poi è stato cadetto all'Accademia Militare di Modena, è stato quindi carabiniere. Poi ha vissuto 4 anni coi gesuiti. Ecco, questa è la parte della vita che più... curiosissima. Ha vissuto 4 anni coi gesuiti. E poi è diventato forse il whistleblower, no? Più famoso. Quando da dirigente delle ferrovie aveva qua terremotato portando un'inchiesta molto importante le ferrovie nord in Lombardia. Ero funzionario, ero quadro, non dirigente. Funzionario, sì. Ora scrive un libro dal titolo Viva la Costituzione, che mi sembra già un manifesto che non ha bisogno di grandi altre spiegazioni, Franzoso. Perché parlare di legalità, leggi, norme e prendere la Costituzione a legge somma da cui partire? Abbiamo bisogno di educazione civica. E l'educazione civica, tra l'altro, torna come materia di insegnamento a scuola da questo anno scolastico. Sì. E quindi ho pensato di proporre un libro con un taglio diverso, non classico manuale, ma un libro di storie, direi di storie vere, di testimonianze. L'idea è quella di trasmettere, appunto, far conoscere i valori della nostra carta costituzionale non a livello teorico, ma coinvolgendo i ragazzi anche nelle loro emozioni, nei loro sentimenti. Quindi ho pensato che è più facile spiegare ai ragazzi che cos'è l'uguaglianza, per esempio, raccontando una storia di disuguaglianza, di disparità, in cui si trovano a confrontarsi con, magari identificarsi con il personaggio che io ho descritto, a indignarsi per quello che succede, e così via. Sì, 20 parole, è molto interessante anche la scelta dell'inizio, la memoria attraverso il racconto di uno dei pochi sopravvissuti della strage di Marzabotto. Perché partire da lì? Quante volte sentiamo dire, no, che siamo un popolo senza memoria, un popolo che dimentica la propria storia e che... per parlare di Costituzione devo partire da ciò che c'era prima, spiegare da dove veniamo, quello che è successo. La nostra Costituzione si spiega anche proprio da quello che abbiamo vissuto in certa epoca storica, il fascismo e non solo. E lo faccio appunto attraverso la storia di un sopravvissuto alla strage di Marzabotto. È un incontro, diciamo, che mi ha toccato profondamente ed è anche molto forte come, diciamo, incipit nel libro, perché sono immagini cruente, molto dure, anche se raccontato in maniera delicata, visto che il libro è rivolto principalmente a ragazzi delle scuole medie, non solo. C'è un articolo, perché non è un libro ovviamente sugli articoli della Costituzione, anche se tornano gli articoli attraverso il racconto di queste storie, ma c'è un articolo a cui più è affezionato, l'articolo più importante degli altri, secondo lei? Ma non ne ho uno che preferito, diciamo che ci sono tanti, diciamo tutte le parole che ho voluto inserire nel libro mi stanno a cuore, poi ci sono quelle che mi stanno più o meno a cuore, ma faccio fatica a creare una classifica, una graduatoria, diciamo qui. Sicuramente mi sta molto a cuore la cultura del paesaggio, il paesaggio che spesso è sfregiato nel nostro paese. Il bel paese sta diventando un paese bruttino, con tanto abusivismo, tante violazioni, no? Tante cementificazione selvaggia e così via. Ecco, questo per esempio è un articolo che mi sta a cuore, ma mi sta a cuore anche solidarietà, che non a caso quel capitolo l'ho intitolato solidarietà, non magari doveri. E lì in quel capitolo ad esempio affronto un altro tema che mi sta a cuore, quello del dovere di pagare le tasse come primo dovere di solidarietà. Anche l'evasione fiscale è un tema che ho sentito il dovere, ecco, di spiegare ai miei piccoli lettori e anche ai loro genitori. Si dice sempre, ragazzi, sono letti dei genitori. Si dice sempre che la nostra Costituzione non è mai stata completamente applicata. Quanto c'è di realizzabile nella nostra Costituzione e invece quanto di utopia? Beh, la nostra Costituzione, sì, è vero, non è ancora stata attuata totalmente, in toto, è un programma per la nostra società, e il titolo del libro dice anche questo, perché il Viva la Costituzione non è soltanto la Costituzione raccontata tra storie vere, storie reali, ma è anche un viva, cioè come imperativo, perché i nostri valori non rimangano solo sulla carta. Beh, ci sono tanti aspetti che dovrebbero ancora essere attuati fino in fondo, ma in ogni capitolo io ho indicato qualche limite, certo. Cioè, possiamo anche scorrerli, cioè già nel capitolo libertà, in cui ho raccontato in maniera molto breve la storia che tutti conosciamo di Stefano Cucchi, ho fatto riferimento anche al nostro sistema carcerario, in cui possiamo dire che siamo ancora lontani da vedere la pena nella sua funzione rieducativa. Le condizioni nelle carceri sappiamo che sono talvolta disastrose, per sovraffollamento, per mancanza di possibilità di lavoro da parte dei detenuti. Questo è un esempio, ma ne posso fare tantissimi altri. Già la cultura, il nostro paese non ha, che dovrebbe davvero investire nella propria bellezza artistica, non lo fa. La ricerca scientifica, sì. Scientifica, per esempio, io l'ho voluto anche inserire con un contributo di una scienziata, Ilaria Capua, sì, Ilaria Capua, ma poi ho inserito anche Chiara Mariotti, che è una scienziata del CERN di Ginevra, che la ricerca scientifica è un po' una cenerentola nel nostro paese. Sì, devo dire che nel libro ci sono appunto anche i contributi importanti, cito alla rinfusa, a parte la introduzione di la prefazione di Gian Antonio Stella, c'è Emiliana Gabanelli, c'è Pier Camillo Davigo, Gerardo Colombo, ma anche Giuseppe De Giorgi mi ha colpito, cioè che guidava, era capo della Marina Militare, oggi difende le balene dando la caccia ai bracconieri. Ci sono storie di questo tipo che potete leggere. Si dice in conclusione, Andrea Franzoni, sempre, la Costituzione è uno slogan che a me non è mai piaciuto tanto, è la migliore Costituzione al mondo, uno quantomeno dovrebbe conoscerne una trentina per fare un raffronto con altre Costituzioni, però si può dire di una Costituzione è bella, è brutta, è la migliore del mondo, è davvero completa secondo lei? Allora, io odio la retorica e penso che se, appunto, leggendo il mio libro l'ha visto, perché io non uso termini, certo, espressioni, diciamo, retoriche, e quindi io mi guardo bene da dire che la nostra è la Costituzione più bella del mondo. Sicuramente è una buona Costituzione che mette in chiaro quali sono i nostri valori, ed è un testo tra l'altro anche scritto in maniera chiara, cosa rara, perché sappiamo benissimo che le leggi nel nostro paese sono sempre scritte in maniera complessa, difficile, astrusa, e necessita spesso di interpretazioni, qualcuno che ci aiuti a comprendere. È un testo che va conosciuto di più, pensiamo di conoscerlo, invece andrebbe davvero letto e approfondito assieme, cosa che spero che si faccia quest'anno in classe. Se si andrà in classe. E se volete, per una lettura, se volete laterale, anche commentata, davvero io ve lo consiglio questo libro di Andrea Franzoso, il titolo Viva la Costituzione, edito da De Agostini, ovviamente lo trovate già nelle librerie. E caro Andrea, in bocca al lupo e ci vediamo presto, ci sentiamo presto, quando vuole siamo qua, insomma. Viva il lupo, grazie mille. Va bene. Ecco, vedi, uno che tutela l'ambiente, viva il lupo. A proposito del lupo, mi è venuto in mente l'orso, perché io ero anche in Trentino, sai che come godeva tutta la popolazione dell'orso M49, che è riuscito anche a liberarsi del collare. E poi c'è stato l'altro orso, sì, che invece è stato ripreso. Sì, perché c'è un orso che ha aggredito fisicamente, no, dico, un aveva carabiniere. Tentato anche di scappare quell'altro orso, che poi invece c'è M49 è scappato e poi si è liberato anche del collare. Tutti tifavano in Trentino, una roba in Trentino Alto Adige, scusate, devo dirlo tutto. Invece l'altro orso l'altro orso? È stato ripreso subito. Quello che ha aggredito il carabiniere? Sì. Quello sì, è stato preso e non so il destino di quell'orso. Vabbè, vabbè. Comunque. Sei impreparato. Siamo mica qui a fare i giornalisti, siamo a fare polemiche. La borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. È tornato il lavoro, sono tornate le piogge, è tornato il freddo la mattina dopo la pioggia. È tutto perché è tornato Manera. Grande Manera, risolvi tutti i problemi. Manera? E la zucchina in frigo? In questo periodo? Ma tu, Milan, che sei così coraggioso, usi la mascherina? Ti lavi le mani? Hai paura del virus? Oppure non te ne importa niente e vai così a bischero sciolto, come si dice dalle nostre parti? A bischero sciolto non è male. No, per sai rispondere che... alle tre domande, sì, la mascherina, sì, mi lavo le mani, ho paura. Tu hai paura? Come definire la paura? Io rispetto le regole, ma non penso di avere paura. No, esatto. Invece vedo in giro gente che proprio ha il panico. Ho più che la paura di salire su un motorino, infatti non ci salgo più da quando... Tra l'altro, sai da cosa deriva la parola panico? Dal dio Pan, questa creatura che era metà uomo e metà caprone. Sì. Era il dio Pan. Stai dicendo che chi ha panico è un caprone? Cari ascoltatori, allora, sto spiegando l'origine della parola sì, panico. Ma per dire cosa? Deriva dal dio Pan. Hai sottolineato caproni. Il dio Pan era una creatura metà uomo e metà caprone che vagava nei boschi alla ricerca di fanciulle. Sfida Luchetti, con verifica quali, se è veramente caprone o magari qualche altro ricerca, animale che lo sputtaniamo subito. Allora, vai, il dio Pan vagava nei boschi alla ricerca di fanciulle quale copiarsi. Ma ogni tanto, senza motivo, il dio Pan cacciava degli urli così forti che le... persone che li ascoltavano andavano, si terrorizzavano e scappavano, e a volte questi urli erano così terrorizzanti che lui stesso scappava, cioè il dio Pan si spaventava delle stesse urla che lui stesso lanciava, e quindi dal dio Pan che lanciava questi urli è nata la parola panico. Questa creatura metà uomo e metà caprone. Comunque, per dire all'ascoltatore, ho paura. Cosa vuol dire paura? Ho molta più paura a salire su un motorino e andare nel traffico, per esempio. Ho paura, ho una... Per esempio, Manera è terrorizzato dal salire su un aereo. Ha molta più paura a salire su un aereo che ad questo andare è vero, in ma giro sai che veramente è così. A prendere un aperitivo e rischiare il virus. E la paura è soggettiva. Certo, temo come tutti, ma ho paura anche che mi possa venire un infarto, piuttosto che ho più paura di un infarto del coronavirus. Ecco, se vogliamo metterla così. Poi, uno rispetta le regole, ma gli eccessi di ansia, di paura, l'ansia poi, ecco, è ansia. Più che paura, perché la paura è determinata. Spiego la differenza. Oggi voglio spiegare l'etimologia della parola ansia. No, voglio spiegare la differenza fra ansia e paura. Allora, la paura determinata da un evento singolo preciso. Preciso che ti causa un attacco di paura. Tu vedi il dio Pan. Arriva il dio Pan. No, qual è il Pan? Esce un cane di colpo da un cancello che ti abbaia, tu hai un momento di paura. Paura. Invece l'ansia è una cosa continua, che a volte non ha neanche delle cause proprio concrete, ma è quella cosa con sintomi più sfumati rispetto alla paura, sì, che però ti accompagna sempre. E anche un fiume può essere ansioso quando è stretto in un'ansa, dalla famosa ansa, dall'ansa del fiume, un fiume ansioso che poi finalmente sfocia in una cascata. Dio Pan, un dio potente e selvaggio, raffigurato con gambe e corna caprine, caprone, zampe irsute, zoccoli, mentre il busto è umano, va bene. Anacleto! Ragazzi, torna a bomba. Anacleto. Wow, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma dove sei? In un meeting? Sono a pagare, sono andato a contestare una multa, sono qui alle Cascine a Firenze. A contestare? Sì. La famosa multa? No, altre. Non sono mica preciso come te io. Che devi contestare? Cose personali. capito? Ma multe in macchina o multe? Multe di che? Di che? Se sono alle ascine a Firenze, davanti alla polizia municipale, che ha beccato in atteggiamenti loschi, con qualche donnina. Le cascine, che fra l'altro è anche un parco abbastanza particolare. Anacleto, sai che la settimana scorsa ero in Toscana, Anacleto. E allora perché mi hai chiamato? Ma me ne guardo bene, perché devo rovinarmi la vacanza? Ma assolutamente no. Ti porta a mangiare la bistecca da Benito, no. Stupido. Sono andato. Senti qui, Anacleto. Sono andato in un posto bellissimo della Toscana che non conoscevo. Come si chiama? La riva degli Etruschi, San Vincenzo, ma poi sono andato a Populonia. Populonia è un borgo medievale. San Vincenzo. È un borgo medievale bellissimo Populonia, certo, che io non conoscevo. Il bagno l'hai fatto? L'ho fatto a Populonia, l'ho fatto a Baratti, l'ho fatto Baratti, a San Vincenzo. Visto bello Baratti. Sì, meraviglioso. Sì, ma non dirlo come se fossero le tue zone che stai a 200 km, Anacleto. Maria, ma io ho girato nella mia più breve carriera. Non mi garba girare tanto, però si garbava. Queste due multe perché le contesti? Madonna, che cosa tanta. Ti contestano loro intanto? Posso parlare per telefono. Aia. Posso parlare per telefono. C'è qualcosa, capito? Di compromettente quasi. Stai a sentire. Com'è andata l'estate? Non ti mandavo messaggi, ogni tanto, ma di quelli che ti ho mandato ne avrei letti uno o due. No, non è vero, è perché tu ti ho detto mi devi mandare i WhatsApp, se mi mandi gli SMS. No, c'ho il telefono per WhatsApp, ma sei grullo per davvero. Io aspetto che mi finisca. 2020 non c'è. Ma io, ragazzi, un più di lì non posso andare, capito? Non mi garba. Ti manda gli SMS, ti manda una roba. Perché non mi mandi un piccione viaggiatore la prossima volta? Ti mando un fiasco di vino viaggiatore la prossima volta. Comunque, a Baratti non sono riuscito a pagare niente. Mi chiedevano delle cose in cambio lì a Baratti. L'ha detta Baratti, è così. A Baratti, sì, ho capito. Sono arrivato dopo fuori, ma insomma. È il comico, vabbè. È stata un'estate oltre il Mozambico o no? Pochissima roba. Ho detto, mi sono sentito un po' bene, avevo un po' di paura, ora è scappato il periodo, mi ha detto. Poi sta bene, devi smettere di bere. Ecco. E se 10 giorni che ho smesso di bere sto bene, capito? Oh, si sente anche dalla voce più lucida. Sente. Bravo, sì, bravo. Non c'è quell'amarezza retrograda, senti che parole che uso stamani, giusto? Non c'è, perché ti crea nocumento il vino, nocumento. No, bravo, con queste parole. Io sai, non sono abituato, pane al pane, vino al vino, questa è una parola che ha troppi significati. Va bene. Senti, volevo sapere una cosa. Prima saluto tutta la chiesina. Salutiamo tutta la chiesina. E ovviamente. Gli avventori del bar Milano. Sempre. Il bar. Sempre. Perché uno chiama il bar Milano alla chiesina? Questo perché il bar Milano, io avevo il bar Shanghai e poi c'era il bar Milano, a quei tempi sono a 100 metri di distanza, c'erano le rivalità calcistiche, di gioco, eccetera, eccetera. Ora è un po' sfumata. Stupendo. Ma insomma, stupendo. La situazione era quella tesa, lì. Non ci si poteva vedere, ma insomma. Salutiamo tutti gli avventori del bar Milano. Chi è il proprietario del bar Milano? È uno, Daniele, ma c'ha il braccino. Un giorno ci chiami dal bar Milano, ce lo passi, così gli facciamo un po' di pubblicità e ti offrono però un crodino. No, un crodino ora no, Dio buono. Al minimo di 3 gradi un bevo, Dio buono. Vai a contestare le multe, Anacleto. Ciao, ci sentiamo. Ciao, a presto. Ciao. Sentiamo Stefano che ci dice dalla provincia di Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno Milan e buongiorno Manera. Eccoci. Buongiorno a tutti. Dunque, niente, io anche questa mattina mentre prendevo il caffè ho avuto modo di restare allibito per l'ennesima volta di fronte a queste dichiarazioni della prima carriera dello Stato, no, del Presidente Mattarella, queste frasi avulse dalla realtà. Che ha detto? Più uno fa due e buonasera, arrivederci. Cioè, il fatto che sia fondamentale il ruolo della scuola per il futuro del paese. Il Presidente della Repubblica deve dire questo. Ma io voglio qualcosa di reale, cioè dopo 30 anni, massacrare la scuola pubblica e la sanità pubblica, affidandola spesso, va bene, a gruppi privati sia nella sanità che nella scuola. Adesso, perché c'è stata la crisi Covid, va bene, c'è stato un macello nella sanità e adesso ci sarà, e già c'è stato un macello nella scuola, cioè escono fuori con queste frasi che sinceramente non hanno proprio nulla di reale. Io mi sento preso in giro, io voglio vedere i fatti. Cioè, ma sì, ma i fatti non li deve, guardi, scusi, se Mattarella, Presidente della Repubblica, tra l'altro nel 150° anniversario della nascita di Maria Montessori, fa una dichiarazione sull'importanza della scuola, ma che deve dire? Cioè, non è il governo Mattarella che dice la scuola inizierà così, coi banchi, cioè sono interventi istituzionali, capisce? Non è che deve dichiarare come inizierà la scuola il 14 settembre, non spetta al Presidente della Repubblica. No, ma il Presidente Mattarella avrebbe dovuto fare un richiamo fortissimo e chiaro nei confronti di chi doveva gestire la scuola, la sanità, perché lui non è presidente da ieri, cosa che non è stata, perché durante anche la sua presidenza io non ho visto questo impegno di Mattarella. Va bene, lei dice manca, ha sentito, cioè avrebbe preferirebbe un presidente della Repubblica che fa magari una dichiarazione istituzionale, ma poi richiami al dovere di coloro che devono portare avanti. Comunque è vero che la scuola dalla riforma Gentile in avanti è stato un susseguirsi di riforme, però poi vive sempre di situazioni complicate. Ogni anno è un disastro, quest'anno è il disastro solito più il Covid. Voi vi immaginate al rientro che cosa possa succedere? Ma ottimismo! Ottimismo, Manera, ottimismo, ti vedo un po' pessimista. Ti ricordi la vecchia pubblicità? L'ottimismo è il profumo della vita. Guerra. Io ho fatto lo spettacolo a Pennabilli, che era il paese di Tonino Guerra, cittadina, bellissima cittadina, Pennabilli. E mi avevano detto, guarda che stasera viene Tonino Guerra, viene Tonino Guerra. No, no. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Adesso faremo ascoltare tutta questa di Dire Straits, soprattutto con la solo finale, e concludiamo così la prima puntata di Uno Nessuno 100.000 con Mark Knopfler. No, non è la prima puntata vera, dopo si comincia veramente a mettere. Sì. Queste sono puntate. Non siamo in onda. Propedeutiche. Sono puntate propedeutiche per permettere a noi di rientrare in questo clima anche lavorativo. Sono i numeri zero. Ma cosa c'è in onda adesso? Barisoni con Focus Economia? No, ci siamo noi. Ma secondo me. Dateci un segnale dalla regia. Siamo in diretta oppure stiamo parlando così solo per noi stessi? No, noi ci siamo, ma la vita vera in tutte le città comincia poi a metà settembre. Adesso io vedo ancora in giro tanti negozi con chiuso, magari alcuni anche proprio per altri problemi, però insomma la vita vera non è ancora quella del 31 agosto. Va bene. Cioè, questa è una vita finta, è una vita farlocca. È finta, è la vita finta. È un bel titolo, la vita finta. La vita finta, cioè praticamente quando riaprono le scuole, almeno gli altri anni si diceva così, riparte il traffico, la vita normale. Adesso penso che oggi avrà giusto aperto il bar Jimmy, ma senza clienti. Quello come al solito. Non è vero, perché nell'ultimo periodo di agosto, quando era ancora aperto, c'erano diverse persone che quasi si assembravano al bar Jimmy, perché era rimasto l'ultimo bar aperto. Sultans of Swing, signori, Dire Straits con questo grande classico. Concludiamo la prima puntata di Uno Nessuno 100 Milan. C'è un lungo assolo finale di Mark Knopfler alla chitarra. We are the Sultans. We are the Sultans. Stiamo scherzando perché non volevo, per carità, escludere l'ultimo ospite che è venuto a trovarci, e lo ringrazio moltissimo. Torna con noi il grande chef Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, il nostro cuoco di fiducia. Allora, per carità, non chiamatemi cuoco. Buongiorno. Gli ho detto più e più volte, buongiorno, non sono un cuoco, sono uno chef emozionale. Emozionale, ecco, anche se qualcuno mi chiama Dono, qualcuno mi chiama Faro. Faro, signor Faro. Faccio fatica a dirlo per via della R. Esatto. Perché non le ha dato un nome diverso? Signor Fao, Fao. Faro. Fao, sembra Fao più che Fao. Non riesco a dire Faro. Fao. Faro. È difficile da dire. Qualcuno mi chiama Triangolo perché rappresento la perfezione. Ah, meno male. E poi ho anche avuto una storia con la moglie di mio collaboratore. Per quello triangolo sarà contento il collaboratore. Sì. Allora parliamo della mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo, che grazie alla mia inconfondibile impronta creativa si è guadagnato il titolo di ottava meraviglia del mondo. Addirittura il desco di Nietzsche ha scalzato il Machu Picchu. Cioè il Machu Picchu è uscito da questa classifica all'ottavo posto. Machu Picchu fuori, uscito. Sì, è stato scalzato dal desco di Nietzsche. Ma ditemi voi che senso ha fare tutti quei gradini del Machu Picchu, arrivare in alto, aprire lo zaino, tirare fuori la borraccia e mangiarci un panino con la mortadella. Senza neanche i pistacchi, la mortadella. Ecco, mangia la mortadella sul Machu Picchu. Quindi è giusto che sia stato scalzato dal desco di Nietzsche, perché il mio non è un ristorante, ma è una nuova prospettiva sull'esistenza che costringe gli avventori a farsi domande nascoste nell'inconscio. Per esempio, sono felice? Cosa mi aspetto dal futuro? Soprattutto come farò a pagare? Perché è vero, il conto, esatto, ricordiamo, il conto è un po' elevato, ma 300.000 euro, se vuoi esperire attimi di incanto, in fondo li trovi, 300.000 euro. Tra l'altro voglio approfittare per lanciare il nostro nuovo servizio di delivery. Sì. Esclusivo. Attenzione. Lei sa cos'è il delivery? Certo, come no. Allora, ti portano a casa il cibo, esattamente, le creazioni. Sì. Io mi sveglio di mattina, prendo gli avanzi, diciamo, per farmi capire, dal frigo, e li frullo con il mixer, poi faccio un bel pacchettino, lo imbarco su un elicottero e voilà, in pochi minuti arriva direttamente sul tetto del vostro attico. Ma come il servizio dico? Costa 250.000 euro. Cioè, con i rimasugli frullate. Più un contributo di 15.000 euro per la benzina dell'elicottero. Emozionante ed emozionale. Sì. Ma d'altra parte, al desco di Nietzsche non si viene per mangiare, si viene per immergersi nella cinetica della genialità. Se vuoi assaggiare del parmigiano di 36 mesi, che ci sembra di essere figo, compra al mercato dal contadino. Noi scegliamo solo il parmigiano invecchiato autentico, che va al bar a giocare a carte e ha problemi di prostata. Ma ora ho sentito invocare il mio nome, sono qui a donarvi una delle mie creazioni. Sì, vediamo. Il titolo è L'unicità della identità. L'unicità della identità. Allora diamo anche gli ingredienti. Sì. Una goccia microfiltrata a temperatura ambiente di acqua piovana raccolta a un'altitudine compresa fra i 1200 e i 1225 metri sul livello del mare. Ma perché? Cos'ha quell'acqua? È necessario per non creare delle banalità alle quali lei è avvezzo. E poi un cristallo di zucchero di canna integrale idroponico. Allora, gli ingredienti sono questi. Cioè, questi due. Naturalmente, una goccia microfiltrata, eccetera, eccetera, e un cristallo di zucchero di canna integrale idroponico. Ingredienti semplici. Sì. Allora, semplici, per insomma, prima cosa, prendete un atlante, trovate un luogo situato a un'altitudine compresa fra i 1200 e i 1225 metri sul livello del mare. Una volta lì, raccogliete una goccia di acqua piovana utilizzando un bicchiere di vetro di Murano soffiato. Ma purtroppo, per le disposizioni anti-Covid, a Murano non si può soffiare, quindi usate il bicchiere che avete, va bene anche brutto. A questo punto immergete nell'acqua il cristallo di zucchero. Ah, acqua e zucchero. E voilà! Ma voilà! Ma voilà cosa? È l'epifania! Ma voilà cosa? È l'epifania! Qualche sprovveduto potrebbe dire è un bicchiere di acqua e zucchero. Sì, ma è un bicchiere, una goccia di acqua e zucchero. No! L'acqua rappresenta l'essere che viene contaminato dall'apparire, cioè lo zucchero. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a una provocazione sulla identità, unicità dell'identità. Ricordiamo il nome della creazione. Questa creazione viene a costare più o meno? 175.000 euro. Oggi voglio essere così generoso, economico. Accidenti, ragazzi. Vi aspetto quindi al Desco di Nietzsche, dove potete immergervi in una vera esperienza gastro-onirica. Portatemi un po' di mortadella. Grazie a tutti, da Bernardo Ferruccio Baroncelli, anche da mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli. Non so, portatevi del prosciutto nascosto nello zaino, perché quando si esce da lì, mi sa, il Desco di Nietzsche, oltre a pagare. Ma quasi. No? No? Il cibo è un'esperienza della mente, non della pancia. Vabbè, ecco, l'ho già ripetuto tante volte, un'esperienza gastro-onirica. Se lo dice lei. Vabbè, come detto prima, concludiamo questa prima puntata con il grande assolo di Mark Knopfler in Sultans of Swing. Siamo tornati, signori, e domani alle 9 ci siamo! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.